del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Amen. La grazia del Signore, l'amore di Dio Padre e l'unione nello Spirito Santo sia con tutti voi e con il tuo spirito.